allora 10 e 29 minuti prima all'ascolto di Radio Onda Rossa, lunedì 7 maggio 2012. E come ogni lunedì all'ascolto di Radio Euskadi, le lotte, la politica, la musica dal Paese Basco e non solo. Cominceremo quest'oggi con notizie di politica interna, diciamo così, con la Commissione Internazionale di Verifica che ha dichiarato che ETA è pronta al negoziato. Poi ci trasferiremo in Irlanda del Nord, a Belfast, dove abbiamo venerdì registrato una corrispondenza per parlare del 31esimo anniversario della morte di Bobby Sands. Vedremo se saremo in grado anche di offrire una corrispondenza in diretta quest'oggi per parlare del film su Bobby Sands, Hunger, attualmente sugli schermi italiani. E poi ce ne andremo a Barcellona, dove la scorsa settimana c'è stata una grande mobilitazione sciopero in concomitanza con il vertice della Banca Centrale Europea. Come detto, andiamo a iniziare con le notizie relative al processo di pace nel Paese Basco. I rappresentanti della Commissione di Verifica Internazionale hanno realizzato il loro secondo viaggio nei Paesi Baschi, leggiamo in una nota che abbiamo ritrovato sul sito di eilmensile.it. Hanno incontrato partiti, sindacati, imprenditori e per la prima volta anche un rappresentante del governo basco. L'unico che si rifiuta di incontrare i verificatori è rimasto solamente il Partito Popolare. Dopo contatti diretti con l'organizzazione armata e i componenti della commissione, che racchiude una serie di mediatori internazionali con trentennale esperienza alle spalle, hanno dichiarato che ETA sta rispettando la volontà espressa di dare per terminata la lotta armata, ma soprattutto che l'organizzazione è pronta al dialogo su una serie di temi pratici rilevanti per consolidare il processo in atto nel Paese Basco. La Commissione ha esortato tutti i protagonisti politici e sociali a mantenere una disposizione fluida verso il dialogo e si sono impegnati a continuare a lavorare con imparzialità e determinazione per arrivare a uno scenario di pace. Un passaggio della dichiarazione riguarda il cosiddetto piano di reinserimento per le prigioniere e i prigionieri politici baschi, reso pubblico dal governo spagnolo, è considerato un primo passo di Madrid dopo mesi di silenzio. Contemporaneamente però a questa seconda visita in terra basca si sta celebrando un processo che ha dell'incredibile a Madrid dentro le aule della famigerata Audiencia Nacional. Sul banco degli imputati ci sono 13 politici appartenenti alle sigle messe fuori legge di 3M e Askatasuna. Per loro la pubblica accusa chiede ben 109 anni di carcere, accusandoli di militare in forma che appartengono di fatto ad ETA. È il vecchio teorema già noto nell'inchiesta dal 1998 a oggi, in cui viene annullata qualsiasi differenza fra il lavoro politico e la militanza armata. I 13 imputati ieri hanno dichiarato di non essere in alcun modo vincolati ad ETA. Le guardie civili che sono state sentite dal tribunale non hanno per ora portato nessun tipo di prova documentale utile per suffragare la tesi dell'accusa. Un processo strano, ancor più strano in virtù dei tempi politici che si stanno vivendo attualmente nel Paese Basco. Private number, baby. All I know is that's me. E allora dal Paese Basco all'Irlanda del Nord, la scorsa settimana il 31esimo anniversario della morte di Bobby Sands nel carcere di Long Cash. A lui seguirono, lo ricordiamo, altri 9 militanti dell'INLA e dell'IRA. Come sempre in Irlanda del Nord, celebrazioni per ricordare questa morte. Noi abbiamo avuto modo di contattare al telefono venerdì scorso la scrittrice, giornalista e saggista Silvia Calamati, più volte ospite graditissima di questa radio. Questa la breve corrispondenza che abbiamo avuto con lei da Belfast. Abbiamo portato dei fiori a nome di tutte le persone che in Italia ricordano, hanno sempre nel cuore Bobby Sands, le persone che sono state ispirate dal pensiero e dalla vita, delle azioni di Bobby Sands, si riconoscono nelle sue idee, e per cui insomma sono queste le persone che noi abbiamo rappresentato qui oggi, e sono le persone che chiaramente sono state con noi l'anno scorso quando abbiamo fatto quella bellissima manifestazione, iniziativa Roma ricorda Bobby Sands, direi una cosa storica non solo per Roma ma anche per l'intera Italia, e direi che è un'iniziativa che ha in qualche modo preceduto quello che poi è stata la decisione della città di Firenze di dedicare una via Bobby Sands, una delle poche città in Europa, e spero che questo esempio venga seguito anche da altre città. Certo che l'iniziativa di San Lorenzo è stata una cosa corale, è stata una cosa di quartiere che veramente ha lasciato un segno molto profondo anche in Cina, questo compagno di prigionia di Bobby Sands, che ha capito che in Italia ci sono tante persone che si identificano appunto nella lotta qui, sostengono quello che il popolo nordirlandese e la gente di Belfast, la comunità nazionalista, ha portato avanti per tanti anni. Per cui il messaggio che abbiamo portato a Milton oggi è stato proprio questo. Io sono qui con Alessandra, che è stata comunque l'anima dell'iniziativa lo scorso anno, e devo dire che andare a Milton a portare fiori è sempre un momento molto commovente per tutti, anche per me. Senti, cosa succede il 5 di maggio a Belfast? Si organizzano commemorazioni, ricorrenze, com'è l'organizzazione della giornata? Allora, la giornata sarà una giornata che vedrà un ricordo di Bobby Sands in diversi quartieri. Ci sarà l'evento più grosso sarà domenica, non domani sera, sarà ad Anderson's Town, un ricordo con il discorso che verrà fatto da un suo compagno di carcere, Jerry Kelly, e probabilmente ci sarà sia la mattina che il pomeriggio lungo False Road, ci sarà una fila di persone con il volto di Bobby Sands che ricorderà appunto la gente che passa il 5 maggio di 31 anni fa, quella terribile giornata che vide la morte di Bobby Sands e anche l'Irlanda del Nord in fiamme, perché lui morì a lunedì 17 del 5 maggio del 1981, appena la notizia si diffuse, questa città scoppiò in un segno di rivolta. Le donne cominciarono a battere i coperchi e i bidoni della spazzatura, auto furono date in fiamme, e da lì questa protesta si diffuse in tutta l'Irlanda, in tutto il mondo. Ricordo che quando morì Bobby Sands ci furono manifestazioni a Parigi, ci furono manifestazioni a Dublino, si cercarono di assaltare l'ambasciata di Dublino, e ci fu una manifestazione a Oslo, a Lisbona. Fu proprio un evento che toccò, che segnò appunto la storia europea, e purtroppo dopo la sua morte, come sappiamo, altri 9 giovani si lasciano morire di fame, e questo fu il periodo direi più tragico della recente storia nordirlandese, però è ancora molto molto presente, direi assolutamente, nella vita quotidiana di tutti i giorni. Bobby Sands è nel cuore della gente qui. Io dico sempre, se continuano a scrivere canzoni su Bobby Sands, ricordo il prigioniero palestinese Saber Al-Man, che al 66esimo giorno di sciopero della fame, perché Bobby Sands morì dopo 66 giorni di sciopero della fame, e ricordò Bobby Sands. Ormai è diventato un punto di riferimento, un'icona per tutti coloro che in giro per il mondo combattono per la libertà e la dignità del proprio paese. E stando qua a Belfast, però, la sensazione è che cammini per strada e di Bobby Sands ne vedi tanti, perché la lotta ai Bobby Sands fu una lotta corale. Furono centinaia alla fine del 1980, quando era in corso il primo sciopero della fame. Ricordo c'erano centinaia di detenuti con solo una coperta per coprirsi, in celle assolutamente immerse negli escrementi, che combattevano la stessa lotta di Bobby Sands. Questi sono gli stessi volti, le stesse facce che si vedono camminando per le strade di Belfast. Bobby Sands è stato un ragazzo normale che è vissuto in tempi eccezionali, ha fatto insieme ai suoi compagni un'esperienza assolutamente eccezionale, ha dimostrato un coraggio e una determinazione che veramente non può essere dimenticata e non sarà dimenticata, anche se il tentativo di cancellare il suo sacrificio e quello che ha significato per la storia dell'Irlanda, perché la vicenda di Bobby Sands ha cambiato la storia dell'Irlanda. Se c'è stato l'accordo di pace è stato perché ci sono stati gli scioperi della fame, e il tentativo di annullare la memoria storica qui è molto forte. Il primo tentativo è stato abbattere il carcere di Don Cash. Quello a cui stiamo assistendo io e Alessandro in questi giorni è veramente un tentativo che da un certo punto di vista è molto, molto forte, molto pesante, che è quello di trasformare Belfast nella città del Titanic. Qui stiamo mangiando pane Titanic dalla mattina alla sera, perché c'è un'operazione commerciale fortissima che ha raggiunto anche l'Italia. Quello che però secondo me si ricorda poco è che questa enorme sicuramente esperienza di viaggio costa la vita a 1500 persone, per cui ricordarla in questo modo così commerciale mi sembra assolutamente poco dignitoso. E allora ritorniamo in diretta, un'altra corrispondenza stavolta in diretta con un nostro redattore, Federico di Visionari. Buongiorno Federico. Buongiorno caro, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, con te questa telefonata, visto che sei insomma uno dei principali responsabili per quanto riguarda la materia relativa al cinema, alla cinematografia. Sì. Lunedì scorso abbiamo parlato molto molto brevemente di questo film sugli schermi italiani da qualche giorno, Hunger, un film di Steve McQueen dedicato alla vicenda di Bobby Sands. Sappiamo che l'hai visto, sappiamo che insomma ti è piaciuto, per cui ci faceva piacere ospitare così un tuo breve commento sulla pellicola. Senti, tra l'altro è disponibile anche su YouTube in versione integrale in lingua originale, non so se poi hai avuto modo di vedere, se ho inviato il link. Comunque è disponibile per chi volesse, si può trovare facilmente. Perché poi è un film di 4 anni fa, ricordiamolo, che è uscito in Italia. Del 2008, sì. Con la consueta calma. È un film che ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali, l'accoppiata Steve McQueen-Michael Fassbender è quella stessa di Shame, ed è stato proprio il successo relativo a Shame che ha convinto la casa di distribuzione BIM a provare questa scommessa della distribuzione in Italia di questo film precedente, che è un po' una scommessa vista la tematica, però insomma il successo del film successivo, che a me invece ha piuttosto irritato per la sua esteriorità, ha convinto la BIM a distribuirlo, non so con quali risultati. Ci sei, Marco? Sì, ci sono. Ah, ok. Sì. Allora, il dato indicativo di questo film è che Steve McQueen, l'omonimo del più celebre attore, ha affrontato la tematica politica, perché è un film evidentemente politico, con un approccio però estetico ed etico. Dal punto di vista estetico è un film decisamente claustrofobico, si svolge tutto all'interno del carcere, famoso H-block cui erano detenuti i militanti irlandesi. Fa dei quadri di sofferenza che però non sono gratuiti nella loro insistenza. Parlo sia dei detenuti irlandesi con barbe e capelli lunghi avvolti da coperte nelle loro celle, sia delle modalità con cui eliminavano gli escrementi spargendoli sulle pareti, oppure per esempio quando erano costretti ad attraversare in fila indiana le due file di guardie e agenti carcerari che li pestavano di botte con tanto di rumori di ossa rotte, per poi finire con il corpo di Fassbender, Bobby Sands, provato dallo sciopero della fame fino alla sua fine, insomma. Dal punto di vista, dicevo, invece etico, c'era chiaramente la loro rivendicazione dello status di prigionieri politici e il conseguente rifiuto della divisa carceraria, a cui si contrappone però inregistrata l'acida voce della Thatcher, Margaret Thatcher, che li definisce terroristi, per cui è inutile che facciano leva sulla pietà umana, insomma. Questo era in sintesi il crudo discorso del governo inglese. E sempre dal punto di vista etico, ecco, è magistrale la conversazione che Bobby Sands tiene con il prete che lo va a trovare in carcere e al quale annuncia la sua decisione di cominciare questo sciopero della fame ad oltranza. Ed è un lungo piano sequenza che secondo me è veramente da storia del cinema. Una conversazione a partire da un approccio alla religione piuttosto popolare, materialista e ruvida in tipico stile irlandese. Il prete ragiona in termini di utilità strategica, per cui considera fallimentare e dannosa la decisione dello sciopero della fame a oltranza, mentre per Bobby Sands è una scelta esistenziale, per lui è giusta ed è una decisione conseguente al proprio modo di essere e di agire. Questo in breve sintesi il modo di approcciare al film e quello che il film ci dice. Secondo me lo fa alla grande, un gran bel film, con molti silenzi, come dicevo, claustrofobico, tutto interno all'H-block, e con un grande dialogo tra il pastore e e Bobby Sands, insomma, che rivela tutta l'umanità e e l'approccio politico di una scelta. Senti, un film riuscito nonostante il fatto che poi l'attore principale sia ormai entrato in qualche modo nell'Olimpo dei divi. Dico questo perché insomma la materia era molto complicata da trattare, e spesso insomma quando la si tratta in un certo modo poi viene meno un po' lo spirito anche della storia. Mi sembra di capire che non sia successo questo nel caso di Hunger. anche perché Fassbender il successo l'ha conosciuto qualche anno dopo, insomma era ancora il 2008. E tra l'altro, ecco, un'altra cosa è che entrambi, sia Fassbender che McQueen, hanno ascendenze nordirlandesi, questo anche perché il film è chiaramente tutto parlato in irlandese, con qualche difficoltà per chi conosce solo l'inglese, però insomma dimostra che il regista è addentro, conosce bene ciò di cui parla, dai dettagli dei bigliettini che i detenuti si nascondevano in tutte le parti del corpo per comunicare all'esterno, nei dialoghi, negli incontri con i familiari, sotto controllo degli agenti, insomma alle loro scelte collettive rispetto alla, per esempio alle urine che venivano, costruivano una specie di con gli avanzi di cibo di barriere intorno alla porta, per cui versavano tutto all'interno e le urine uscivano fuori dalle celle e invadevano i corridoi, costringendo poi gli agenti alle pulizie, ma questo chiaramente poi comportava altre punizioni corporali per loro, che vengono tutte ampiamente documentate. Sì, sono tutti i dettagli che insomma che mostrano, ecco, la mia preoccupazione era: figurati se un film del genere avesse fatto un americano, quante imprecisioni, e invece qui insomma si vede che la materia la conoscono, ecco, gli autori. Certo, era un po' il timore anche mio, però insomma sia da quello che dici tu sia da altre testimonianze mi pare che si sia riusciti ad andare oltre. Va benissimo, sì. Federico, ti ringraziamo moltissimo, buon ritorno a Roma, e poi con te ci si risente da queste frequenze domani e giovedì, immagino. Benissimo. Va bene, un abbraccio, a presto, ciao. Ciao. Another one this time, I think you'll be able to sing along with us. The Ballad of Joe McDonald. For it's in the town of Belfast I spent many happy days. I love that town in oh so many ways. For it's there I spent my childhood and found for me a wife. I then set out to make for her a life. But all my young ambitions met with bitterness and hate. I soon found myself inside a prison gate. Divided many lands, you have terrorized my people, you blew away, and now your hand, and you brought this plain of terror to my land. In those many months in torment, on the Maidstone in the Kitch, I thought about my land throughout those days. Why my country was divided, why I was now in jail,

E allora The Irish Brigade, la ballata di Joe McDonnell, che dovrebbe servire ogni volta da tappetino musicale, poi ci facciamo prendere e la mandiamo tutta intera ricantandola qui in studio spesso e volentieri. E allora sono le 11 passate da un minuto, noi ci apprestiamo a chiudere questa breve oggi puntata di Radio Euskadi, vista la giornata, tante le cose di cui parlare. Fra poco, dopo aver parlato di Grecia, parleremo di Francia. Ma volevamo chiudere la parentesi cinematografica su Bobby Sands e sul film Hunger di Steve McQueen con Michael Fassbender. Ci sono vari altri film, varie altre pellicole sulla vicenda di Bobby Sands. Prima di Hunger c'era stata Una scelta d'amore, un lungometraggio del 1996 di Terry George. E poi più di recente, nel 2005, un film di David Ballerini dal titolo Il silenzio dell'allodola, un film in cui la storia di Bobby viene decontestualizzata e viene unita a altre vicende più recenti come Abu Ghraib o Guantanamo. Ma sul conflitto irlandese e nordirlandese c'è una vasta filmografia, a differenza di quanto avviene nel Paese Basco. L'IRA e i suoi militanti sono stati spesso soggetti di film. Molte volte film dimenticabili o addirittura dannosi. Ma ci sono delle perle, è il caso di Ken Loach, che firma almeno due film sull'Irlanda. Il primo è dell'anno di grazia 1990, The Hidden Agenda, l'agenda nascosta. Un film che racconta una vicenda di fantasia, la ricerca di due attivisti americani di testimonianze sulle violazioni dei diritti civili compiute dalla polizia inglese nei confronti di sospetti militanti dell'IRA. Il film però è ispirato a un'inchiesta relativa alla politica dello shot to kill, lo sparare per uccidere, adottata dalla polizia nordirlandese negli anni 70 e 80. È sempre di Ken Loach, un vero e proprio capolavoro, che nel 2006 vinse la Palma d'Oro al Festival di Cannes, Il vento che accarezza l'erba, film ambientato durante la guerra di indipendenza irlandese fra il 19 e il 21 sulla anche successiva guerra civile fra il 22 e il 23. Film terribile e struggente che non si può non vedere. E poi ci sono anche due titoli, mi permetto di consigliare, decisamente più leggeri. Ma apprezzabilissimi, anche se il tema è ovviamente molto diverso, sono del regista irlandese Neil Jordan. Il primo è famosissimo, è la moglie del soldato del 1992 con le vicissitudini di un membro dell'IRA e si ritrova coinvolto in una situazione sentimentale davvero piuttosto complessa. E sempre di Neil Jordan nel 2005 la firma di Breakfast on Pluto, ancora la storia di una persona transessuale che in qualche modo ripercorre le vicende più importanti dell'Irlanda del Nord degli ultimi 30 anni. E poi concludiamo, almeno io concludo personalmente, con un filmone hollywoodiano che non mi dispiacque del tutto all'epoca, però su questo critiche sono legittime. Un film di Alan Pakula del 1997 con Brad Pitt e Harrison Ford dal titolo L'ombra del diavolo. E con questi consigli assolutamente personali e assolutamente criticabili, per carità, eccezione fatta per il vento che accarezza l'erba, Radio Euskadi termina qui e vi dà appuntamento a lunedì prossimo. E quindi sigla di chiusura e poi fra poco di nuovo in diretta con un altro compagno per parlare ancora delle varie elezioni che si sono tenute ieri in Europa. Fra poco è la volta della Francia. American.